Letture di Radio 24. Molte mamme e papà che lavorano e che non possono contare su nonne e babysitter sono costretti a volte a portare i figli all'asilo fin da quando hanno pochi mesi di vita. E questo tutte le mattine. Ma chi lavora di notte? Come risolve il problema? In Giappone c'è chi ci ha pensato. È un asilo di Tokyo ed è aperto anche la notte. ABC è stato fondato da Kiyomi Katano a Shinjuku a Tokyo ed accetta bambini dal 43esimo giorno di vita ai 6 anni. In Giappone, spiega, si lavora fino a tardi e le mamme hanno bisogno di un posto dove poter lasciare i figli senza preoccupazioni sull'orario. 58 anni, due matrimoni e 6 figli, Katano-san conosce il problema. L'orario di base è dalle 11 di mattina alle 10 di sera, ma siamo attrezzati per tenere i bambini di notte. Le madri vengono a prenderli quando finiscono di lavorare. La graduatoria per entrare da ABC è stabilita in base al reddito e agevola le mamme con professioni dove sono necessari i turni notturni, infermiere, medici, cameriere, lavoratrici di aziende comunali o private. Dei 64 bambini che attualmente frequentano l'asilo, una ventina usufruisce quotidianamente del servizio notturno. La maggior parte dei bambini esce intorno alle 6:30 del pomeriggio, in ogni caso dopo aver cenato. A quelli che restano facciamo il bagnetto, poi tutti a dormire. La maggior parte dei bambini, 42, sono giapponesi. Il resto, figli della comunità internazionale di stanza a Tokyo, coreani, thailandesi, cinesi, filippini e americani. La storia di Katano-san e del suo asilo sta facendo scuola, tanto che su questa esperienza sono stati realizzati programmi TV. Nel quartiere di Setagaya se ne sta aprendo un altro, e asili che fanno orari notturni sono nati anche a Osaka, Miyazaki, Ishikawa e Tottori. In una società come quella giapponese, in cui si fanno sempre meno figli e l'invecchiamento della popolazione è uno dei problemi più sentiti, strutture come questa stanno diventando fondamentali. Una mamma commenta: «Se c'è un posto sicuro dove posso lasciare mio figlio senza pensare all'orario, posso lavorare un po' di più e presto potermi permettere un altro bambino». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Viti all'Asilo a Mezzanotte, dall'Espresso del 21 ottobre. Letture di Radio 24. Ad un gruppo di ultra sessantenni è stato chiesto di ripetere un elenco di 10 nomi ascoltati 10 minuti prima. Risultato: hanno più memoria quelli che vanno in pensione più tardi. Quanto prima si va in pensione, tanto più rapidamente declina la memoria. Così risulta da uno studio condotto negli Stati Uniti, in Inghilterra e in altri 11 paesi europei. Le implicazioni di questo fenomeno, dicono gli esperti, è che pare confermato il principio dell'usala o ne perdi la facoltà. «È estremamente interessante», ha detto Laura L. Carstensen, responsabile del Centro per la Longevità presso l'Università di Stanford. «Ne deriva che il lavoro di fatto costituisce una componente di primo piano nel contesto che serve a far sì che la gente continui a ragionare nel modo migliore. Anche se non tutti sono convinti delle conclusioni dell'analisi, molti ricercatori affermano che questo studio è una conferma di un'ipotesi nella quale molti credono, ma che è difficile da dimostrare». I ricercatori hanno riscontrato che la categoria dei pensionati tende a ottenere risultati meno ottimali nei test cognitivi di coloro che sono ancora attivi nel mondo del lavoro. In ogni caso, ciò potrebbe dipendere dal fatto che gli individui con calo di memoria hanno maggiori probabilità di andare in pensione. La ricerca non è riuscita a confermare la premessa secondo cui occuparsi con costanza nella vita reale di esercizi di memoria, parole crociate e giochi come il sudoku, migliori le funzioni nel loro insieme. I test di memoria controllano quanto ricordino le persone di un elenco di 10 nomi, immediatamente e a distanza di 10 minuti da quando li hanno ascoltati. Il punteggio pieno è 20, il che significa che in entrambi i casi si sono ricordati tutti i 10 nomi. Negli Stati Uniti si è registrato il punteggio più alto, pari a 11. Seguono in classifica Danimarca e Inghilterra con punteggi di poco superiori a 10. In Italia la media è 7, in Francia è stata 8, in Spagna poco più di 6. Esaminando i dati provenienti dai vari paesi, il dottor Willis e la sua collega Susan Rowether, direttore associato del Centro RAND per lo studio dell'invecchiamento a Santa Monica in California, ha osservato che vi sono differenze nell'età del pensionamento. Negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Danimarca, dove si va in pensione più tardi, dal 65 al 70% degli uomini era ancora attivo al lavoro dopo aver compiuto i 60 anni. In Francia e in Italia tale percentuale scende tra il 10-20% e in Spagna al 38%. Gli incentivi economici, hanno riferito la dottoressa Rowether e il dottor Willis, fanno la differenza. I paesi dove si va in pensione prima hanno politiche contributive, pensioni, sussidi per i disabili e provvedimenti che incoraggiano la gente a lasciare il posto di lavoro a un'età più giovane. Le ricerche hanno oltretutto messo in luce un'incredibile relazione tra la percentuale della popolazione che in un paese lavora tra i 60 e i 64 anni d'età e le loro performance nei test di memoria. Quanto più si lavora, tanto più sale il risultato dei test, come gruppo, quando si è sulla sessantina. Naturalmente, non ogni professione è stimolante dal punto di vista mentale, ma, dice il dottor Willis, le competenze personali, alzarsi al mattino, interagire con il prossimo, sapere quanto conti e essere affidabili, sono altrettanto importanti. Hugh Hendry, illustre professore di psicologia alla Facoltà di Medicina dell'Università dell'Indiana, non è convinto dalle conclusioni alle quali è pervenuta la ricerca. È un approccio interessante, ma le correlazioni non dimostrano un rapporto di causa-effetto. Tutto vero, dice Richard Sutzman, direttore associato per la ricerca comportamentale e sociale dell'Istituto Nazionale per l'Invecchiamento. Se lavorare contribuisce a mantenere in funzione le nostre competenze cognitive, sarà importante scoprire quale aspetto del lavoro serve a questo scopo, ha detto Sutzman. Si tratta dell'interazione sociale? Dell'impegno verso gli altri? Sarà l'assenza di tutto ciò quando si va in pensione a incidere sulla memoria o il fatto di guardare maggiormente la televisione? Questo è solo il primo passo. Adesso occorrerà approfondire la ricerca. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gina Colata, Memoria, i blackout dei baby pensionati, così il cervello perde colpi. Da Repubblica del 13 ottobre. Una malattia le ha tolto la memoria e ora lei viaggia con una macchina fotografica che scatta automaticamente 4.000 foto al giorno per aiutarla a rivedere le immagini che non sa di aver vissuto. Sugli aerei, le scatole nere sono di solito nascoste nella parete posteriore della fusoliera, dove minore è il rischio che smettano di funzionare in caso di incidenti, spesso mortali. Il volo della vita non ha riservato un destino così amaro a Claire Robertson. L'encefalite erpetica che l'ha colpita 6 anni fa non l'ha uccisa, ma le ha tolto la memoria ed è per questo che lei ora porta sempre appesa al collo una macchina fotografica che è la sua scatola nera personale. L'apparecchio scatta una fotografia ogni volta che il suo sensore avverte un movimento, una variazione della temperatura, una differenza di luce. In media succede ogni 15 secondi e alla sera Claire scarica sul computer della sua casa di Peterborough, in Gran Bretagna, circa 4.000 immagini della giornata che non sa di aver vissuto. Alla Sensecam, come si chiama la macchinetta inventata dai laboratori inglesi della Microsoft, Claire ha affidato i ricordi destinati altrimenti a svanire nel nulla. Persino suo marito deve indossare un monile con un dente di pesce cane che ricorda alla moglie chi sia. Quando incontrano Claire, i suoi amici esitano un secondo per vedere se dalle nebbie del suo cervello emerge il loro nome. Poi si presentano come se fosse la prima volta che la vedono. La forma di amnesia di cui soffre Claire è infatti così grave che talvolta lei non riconosce neppure se stessa. Le è capitato di guardarsi allo specchio cercando di ricordare dove avesse visto quella faccia che le sembrava familiare. Come tutti quelli che soffrono di questo disturbo, Claire, che oggi ha 49 anni, conserva alcune forme di memoria, quella funzionale, per esempio. Sa ancora guidare la macchina e potrebbe imparare a suonare il piano, anche se non avrebbe ricordo alcuno delle lezioni prese. La cosiddetta memoria semantica è intatta. Claire mantiene le nozioni che ha imparato a scuola e può apprendere, seppure in forma limitata, nuove informazioni. Ma la parte del cervello danneggiata dall'encefalite, l'ippocampo, ha azzerato del tutto la memoria episodica, ovvero i dettagli, i suoni e le sensazioni associate con le piccole esperienze della vita. Come funzioni questa categoria della memoria umana è ancora un mistero assoluto per i neuropsicologi. La memoria episodica si comporta come un pazzo che butta via il cibo, ma fa provvista di tappeti colorati, esemplifica Austin O'Malley, dottore e scrittore americano. Ma è proprio questa capricciosità a rendere efficace la Sensecam. Grande più o meno come un mazzo di carte, può immagazzinare fino a 30.000 immagini, corrispondenti a circa 100 ore di vita. Abbastanza, cioè, per un intero Truman Show. Le necessità della vita in diretta sono però poca cosa rispetto all'importanza che la Sensecam sta assumendo nel trattamento non solo degli amnesiaci, ma anche dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer. Poiché questa malattia colpisce prima di tutto la zona dell'ippocampo, Alcuni ricercatori pensano che l'uso della Sensecam possa rallentare la degenerazione di quella parte del cervello. Non c'è ancora alcuna prova che la macchina fotografica possa veramente guarire le disfunzioni della memoria episodica, ma quando i medici di Claire analizzano l'attività elettrica del suo cervello, vedono che le aree associate con la memoria sono particolarmente stimolate se la donna cerca di ricordare eventi che ha rivissuto guardando le istantanee della sua vita sul computer di casa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco De Martino, La donna che dimentica tutto scatta 4.000 foto al giorno per ricordare quello che ha fatto, da Panorama del 21 ottobre.